Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Unusual weather for New York City today. It was 68 and foggy. Oh no, wait a minute, that's me. I'm sorry. That's me. Il Late Show e David Letterman. L'appuntamento fatidico di questa sera è arrivato. Ve ne ho parlato altre volte nel corso di America 24, anticipandovi che ci sarebbe stato un calo del sipario. Ecco, il calo del sipario su Late Show di David Letterman, attenzione, perché poi continuerà, perché riprenderà poi a settembre con Steve Colbert. Ma questo grande, lunghissimo periodo di gestione di regno di Letterman, che ha segnato il modo di far ridere, lo spirito, la presa in giro, l'ironia, le emozioni degli americani in 33 anni di conduzione, arriva al termine questa sera. Devo dire, David Letterman ha avuto una carriera straordinaria, aveva fatto, prima di passare al Late Show, aveva fatto 11 anni con la NBC con il Late Night, e poi dal 93 è passato al Late Show with David Letterman su CBS. Tra l'altro lui voleva prendere il posto di Johnny Carson, che faceva il Tonight Show, e ci fu una grossa battaglia. Poi alla fine la NBC gli preferì Jay Leno, e da allora è nato, come dire, questo scontro fra questi due titani dell'intrattenimento notturno americano, l'intrattenimento leggero, questa forma di intrattenimento dove c'è, come dire, uno spirito molto intelligente, molto sottile, dove è più facile sorridere apprezzando l'intelligenza di una battuta piuttosto che sganasciarsi e dalle risate, dove ci sono degli ospiti sempre straordinari, interessanti, attori, attrici, cantanti, politici, e dove si fa politica solo in modo molto indiretto. Per esempio Barack Obama è stato ospite di David Letterman, ma c'è sempre un rapporto molto simpatico, molto divertente. Insomma, è il talk show all'americana, dove c'è un po' di tutto. Non è il talk show politico come da noi, dove spesso sentiamo dei litigi furibondi, dove si cerca di eviscerare anche la più piccola differenza su una tematica politica, dove le persone si arrabbiano. Questo è il talk show all'americana. You're still here. Yeah. I ran over the other place. No. Ecco, ma veniamo alla trasmissione di ieri sera. Bill Murray, quello che avete sentito è Bill Murray. Perché Bill Murray è stato invitato probabilmente come ultimo ospite, perché da quel che capiamo questa sera non ci saranno poi degli ospiti, ci sarà soltanto un addio, ci saranno molte reminiscenze del passato, i momenti migliori della trasmissione, grandi lacrime, grande musica, eccetera eccetera. Perché Bill Murray è stato il primo ad essere intervistato, e quando Letterman debuttò, quando andò in onda per la prima volta, e da allora è stato ospite del David Letterman Show 44 volte. Bill Murray lo conoscete, è un attore comico, anche lui appartiene, se volete, alla mitologia dei comici americani, perché nasce a Saturday Night Live. Saturday Night Live è questo grande spettacolo del sabato sera della televisione americana, della NBC tra l'altro, che ha lanciato generazioni di grandi comici americani. E dunque era logico che David Letterman volesse chiudere con Murray, come dire, è veramente il segnale di una chiusura di percorso. Ecco, detto questo, c'è stato qualcuno che è riuscito a mettere in difficoltà David Letterman, e guarda caso è stato un italiano. Please welcome Roberto Benigni. Buongiorno. Buongiorno to you too. Have a seat. So, American people, this is the first time I am with David Letterman. I am very glad to see you and him. Yes, I prepared this place. Yeah, you did an awfully nice job. Ecco, Roberto Benigni, siamo nel settembre del 1986, 16 settembre 1986, Benigni ospite di David Letterman. Avete sentito questo scambio? A un certo punto, con la sua solita energia, la passione, dice Benigni: americani, questa è la prima volta che sono seduto qui dal David Letterman. E dice Letterman, perché si capisce quello e non Letterman: sono molto felice di vedere voi e lui, e ho preparato questa queste frasi proprio per potervele dire in inglese. Ecco, poi continua David Letterman, gli dice: ma tu di dove sei in Italia? E Benigni risponde senza perdere un colpo, dice: da una piccola città chiamata Zurigo in Italia. Ma questa parte finale, che così ci aiuta a far partecipare anche un italiano, anche Benigni, a questo addio di David Letterman e a David Letterman, ve la faccio sentire direttamente in inglese. We're back with Roberto Benigni. Now tell us about your the film. This is your first American motion picture you're in. The name of it is Down by Law. Down by Law, yeah. What is? Your new motion picture, Down by Law. Tell us about it. Tell us a little bit about it. Don't tell us the whole damn thing, for Christ. Just a little bit about it. Okay. So I shoot at Down by Law. Yeah, you're in the movie. Who else is in the film? This is a film very sad and happy in the same time. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.